Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa, tanto ormai lo sapete, lo sanno tutti, in attesa di conoscere se vincerà Hillary Clinton o Donald Trump. Non è un'attesa da poco per i mercati finanziari, non è un mistero nemmeno questo, che e lo si è visto ieri come diciamo l'ammorbidirsi, o meglio la sostanzialmente il comunicato dell'FBI sulla vicenda di Hillary Clinton che riguarda le sue mail, dicendo che questo non c'erano dei profili così gravi, aveva fatto riguadagnare un po' di proiezioni elettorali alla Clinton, e subito i mercati si erano mossi in questo senso. Non è un mistero, dicevo, che per quello che riguarda Wall Street la vittoria della Clinton verrebbe vista con più favore, molto meno favore quella di Donald Trump, ma sappiamo, è un vecchio detto americano, che un conto è quello che pensa Wall Street e un conto è quello che pensa Main Street, cioè la gente della strada. Più 0,13% Milano in questo momento, più 0,11% Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,30%, euro su dollaro 1,10%. Tra i titoli oggi molto forte Azimut, ne parleremo, più 7,90%, Monte dei Paschi più 6,5%, Mediolanum più 2,30, Brembo più 2 come la Popolare Emilia Romagna, l'1,5 lo guadagna Telecom Italia. Tra chi perde invece la Pop Milano il 2,20, il Banco Popolare il 2, Italgas l'1,70 come Saipem, l'1,5 il calo di Fiat Chrysler, e l'1% lo perdono sia Exor che Snam Rete Gas, che Unicredit meno 1%. Parleremo, dicevo, delle elezioni americane, ma non sui programmi, insomma, molti osservatori, e devo dire che personalmente concordo, l'hanno definita una campagna molto priva di programmi, o povera di programmi, perché tutta concentrata su queste due figure e sulla figura soprattutto di Trump, che spaventa alcuni, eccita altri, ma insomma di programmi si è parlato pochissimo, anche e soprattutto di programmi di politica economica. Qualcuno mi scrive: tanto vince la moglie di Clinton, non è mai stato in vantaggio Trump. Intanto chiamiamola Hillary Clinton, lasciamo stare la moglie di... Non lo so, vediamo. Io dopo dei sondaggi non mi sono mai fidato, quindi avremo la diretta che inizia alle 21 e andrà avanti fino alle 6 di mattina, poi alle 6 di mattina ne parleremo nella programmazione ordinaria di Radio 24. Per cui comunque la notizia dovrebbe arrivare, da quello che capiamo, tra le 5 e le 6 di mattina ora italiana. Chiaramente di questo parleremo, ne parleremo dopo le 18. Ripeto, l'indicazione dei mercati non è dovuta tanto a piani concreti di politica economica o a programmi concreti di politica economica, ma a un'idea che con la Clinton vi potrà essere maggiore continuità, e Trump invece è un'incognita anche dal punto di vista delle politiche economiche. Certo, la Clinton ha detto che vuole aumentare le tasse per le grandi imprese, per finanziare gli investimenti pubblici in infrastrutture e semplificare il fisco per le piccole e medie, vuole portare il salario minimo ai $15, rafforzare e migliorare, l'ha detto più volte, l'Obamacare, la riforma sanitaria varata da Barack Obama, che non convince pienamente nemmeno Hillary Clinton, rigettare il trattato con i paesi del Pacifico e difendere invece quello con Messico e Canada, e poi introdurre anche una tassa sulle società di Wall Street. Uno dovrebbe dire: beh, se è così, Wall Street dovrebbe vedere con maggior favore Trump. In realtà, appunto, qui viene premiata la continuità rispetto alla politica precedente. Trump è invece per un taglio delle tasse federali per rilanciare i consumi, vuole abolire totalmente la riforma sanitaria di Obama, Obamacare, abolire la tassa di successione, ridurre le aliquote da 7 a 3, abbassare le tasse federali sulle imprese dal 35 al 15%. Da noi sarebbe già una conquista averle al 35%. E poi abolire le leggi che impongono gli standard ambientali, rigettare anche lui il trattato con i paesi del Pacifico. Mi sembra che sia l'unico punto in comune tra Donald Trump e Hillary Clinton. Parleremo però anche di noi e dell'Europa, perché è continuato, anche se i toni si sono un po' smussati Il botta risposta Roma-Bruxelles. Ieri abbiamo raccontato anche ascoltato le parole di Juncker e quindi del Presidente della Commissione Europea, con quel suo me ne frego che non è piaciuto a molti. Devo dire, da questo punto di vista, che allora l'Italia ha sicuramente alzato il livello della polemica per fini interni, elettorali interni, dicono alcuni, questo non lo so. Devo dire che Juncker è sembrato a tutti molto molto nervosetto su questo, e oggi il Premier Renzi è tornato sul tema dell'Italia come contribuente netto. Noi versiamo 20 miliardi all'anno a Bruxelles, ne riceviamo in cambio 12, non è una cosa solo italiana, cioè tipicamente ci sono paesi che versano più di quello che ricevono, i paesi di sotto sono quelli arrivati negli ultimi anni che ricevono più di quello che versano. Ecco però perché è abbastanza inaccettabile, lo dico, non me ne frega nulla se che sia anche la posizione di Renzi, l'atteggiamento di alcuni paesi dell'est Europa a partire dall'Ungheria sui flussi migratori. Mi piacerebbe, e lo dico con voluta polemica, vedere Juncker arrabbiarsi nello stesso modo anche con Orban. Cioè, va bene prendere posizioni sull'Italia perché, e ribadire che c'è stata in questi anni, da quando Juncker è presidente, maggiore flessibilità, però faccio notare che la posizione dell'Europa nei confronti non dello 0,1, 0,2, 0,3 di deficit, ma nei confronti dei paesi che non stanno accogliendo neanche un migrante, nonostante questa sia una decisione europea, è stata di una debolezza estrema. Da lì poi sospetto che l'unica cosa su cui l'Europa riesce a alzare la voce sono i deficit e i criteri di bilancio, magari di paesi non così forti, nel senso che il surplus di bilancio commerciale tedesco non ha mai ottenuto le rampogne nemmeno dello stesso Juncker. Comunque ne parleremo, in apertura però, con i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore trasmessi anche su RDS, vorrei far ascoltare il commento di Alessandro Platerotti proprio sulle elezioni americane, quelle che decreteranno il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Servono 270 delegati per essere sicuri di essere il nuovo presidente, visto che in totale sono 593. Anche quest'anno, come ogni volta che ci sono le elezioni americane, si guarda con attenzione ad alcuni stati, nello specifico la Florida, come sempre, Ohio, anche questo è stato chiave, e poi Nevada e New Hampshire. 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il voto americano procede a pieno ritmo e per la borsa è arrivato il momento di guardarsi intorno dopo il rally di ieri, soprattutto sulla decisione dell'FBI di non aprire una procedura di inchiesta contro Hillary Clinton, ha rianimato i mercati, ma poi ha prevalso la prudenza. Oggi sono soprattutto gli acquisti sui titoli difensivi a tenere la borsa in sostanziale pareggio. Ma qual è il punto? Per le Americhe, soprattutto per i mercati finanziari, al di là di chi vince, cioè Hillary o Trump, il punto è un altro: l'incertezza che si vede in queste elezioni sarà probabilmente destinata a proseguire al di là di chi vince in America e soprattutto nelle prossime elezioni che arriveranno in Europa. Ma qual è il motivo? Più del populismo, della politica tradizionale, quello che le borse e i mercati percepiscono è un cambio di equazione sul mercato dei voti, ovvero tanta gente, soprattutto quelle categorie sociali che non si rivolgevano, non avevano fiducia nella politica, stanno andando a votare. Quindi non è soltanto un cambio di opinione all'interno dell'elettorato e dei mercati, ma è soprattutto una modificazione strutturale della partecipazione. L'antipolitica sta diventando politica e questo complica i conti non soltanto dei partiti tradizionali, ma degli stessi mercati finanziari che, alla vecchia idea della stabilità, ora hanno sostituito quella dell'incertezza, un'incertezza che probabilmente non se ne andrà con il voto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, poi ne parleremo, vedo che qualcuno mi corregge, chiedo venia se ho sbagliato, se è stato un refuso, sono 538 i delegati, quindi 270 è la soglia oltre la quale tu sai, con la quale in realtà tu sai di aver vinto. Vedo molti molti commenti su questo, anche di sostenitori di Trump, ma ben venga, ma va benissimo. Qualcuno dice adesso che c'è Renzi, lei è contro Europa. No, guardi che in realtà difendemmo anche l'Italia, non il singolo governo. Mi riferisco quando era il governo Berlusconi e Tremonti, ministro dell'economia. Se qualcuno si ricorda quel sorrisetto insopportabile di Sarkozy, che per fortuna qualcosa gli è costato, con Angela Merkel, vertice di Nizza, vado a memoria, potrebbe non essere il vertice di Nizza, quando presero in giro l'Italia, lo definimmo inaccettabile. Cioè uno può pensare quello che vuole a livello di politica interna, però poi il rispetto come paese lo devi chiedere comunque, che ci sia un governo che hai votato o non hai votato, di centrodestra, centrosinistra, per cui non è vero. E difendiamo l'Europa come idea. Se poi mi dite sulla polemica con Juncker, ho detto semplicemente la polemica l'ha aperta Renzi con varie dichiarazioni sull'Europa, sul deficit, sulle spese per le scuole e per i flussi migratori. Ho solo detto che non ricordo, forse colpa mia, una posizione così forte di Juncker nei confronti dell'Ungheria, di Orban e di altri paesi che stanno bellamente non rispettando accordi ancora più cogenti, se vogliamo, rispetto a 1,01-1,02 in più di deficit. E non ricordo una posizione così netta dello stesso Juncker nei confronti della Germania, che ha un surplus commerciale al 9%, quando il tetto massimo accettato e stabilito dal Maastricht è del 6%. Allora, restiamo sull'economia internazionale. La Cina vede anche ottobre un brutto dato sulle esportazioni, meno 7,3%, ma calano anche le importazioni, meno 1,5%. Il surplus commerciale resta a 49 miliardi di dollari contro i 51 miliardi attesi, tutti dati al di sotto delle stime degli analisti, che pure rappresentano un leggero miglioramento rispetto al trend di settembre, meno 10% a settembre le esportazioni cinesi, meno 2% le importazioni. Cala oltre le attese la produzione industriale tedesca, che scende di quasi il 2% a settembre, con tutti i settori in calo: l'energia meno 3, beni di investimento meno 2,5, manifattura meno 1,7, beni di consumo meno 2, costruzione meno 1,5. Invece, restando nell'area, diciamo, europea, per modo di dire, parliamo di Turchia, perché continua il crollo della lira turca. Stamani ha toccato i minimi contro il dollaro dal 1981, almeno dal 1981, dove abbiamo la serie storica più affidabile. Praticamente la lira turca, dal fallito golpe del 15 luglio e anche in seguito poi alla reazione durissima di Erdogan, ha perso circa il 10%. In Gran Bretagna invece continuano le polemiche sulla Brexit, perché oggi che cosa è successo? Il First Minister scozzese Nicola Sturgeon ha dato il via libera alle autorità della Scozia per intervenire nella battaglia legale sulla Brexit, dopo che la Corte di Giustizia di Londra ha dato ragione a Gina Miller e il governo britannico però ha fatto appello alla Corte Suprema. Praticamente anche la Scozia vuole essere chiamata in causa, serve anche il consenso del Parlamento di Edimburgo. Una buona notizia, veniamo all'Italia invece, che riguarda la vicenda Almaviva. Se qualcuno la ricorda, sono quasi 400, 398 i dipendenti del call center Almaviva Contact, che della sede di Palermo, hanno per ora almeno scongiurato il trasferimento, perché è arrivata la firma dei sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico, la presenza del Vice Ministro dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova, e quindi l'intesa trovata prevede l'assunzione entro il prossimo 5 dicembre su base volontaria di 295 operatori di Almaviva Contact Palermo, impegnati nella commessa Enel in scadenza a dicembre. Gli altri 98 lavoratori dovrebbero rimanere in Almaviva Contact, sempre quella a Palermo, quindi nessuno dovrebbe essere trasferito da Palermo appunto a Rende. E un'altra buona notizia riguarda il turismo, settore ogni tanto bistrattato, soprattutto il turismo a sud. La buona notizia ha dato oggi il ministro Franceschini, sottolineando che il sito di Pompei ha toccato un nuovo record storico di visitatori, e ancora l'anno 2016 non si è concluso ovviamente. Per la prima volta nella sua storia ha superato i 3 milioni di visitatori. L'anno scorso, in tutto l'anno, era arrivato a 2 milioni e 900 mila. Mi rendo conto che non sia una notizia devastante, però, visto che raccontiamo anche tutte le disfunzioni anche nel turismo del nostro Mezzogiorno, questa può voler dire anche qualcosa sulla tanto vituperata da alcuni sindacati Pompei. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Scrive un ascoltatore: ma guardi che quella tra Juncker e Renzi è tutta una pantomima per far apparire Renzi una persona forte, che alza la voce con l'Europa in vista del referendum. L'ho detto, nel senso che è un'ipotesi, è una valutazione che molti fanno, che la polemica di Renzi con l'Europa sia per ottenere maggior consenso in vista del referendum. Detto questo, che lo faccia per il referendum, che lo faccia per altri motivi, io penso che sia una polemica da un punto di vista strutturale corretta. Cioè, è troppi anni, ma l'abbiamo sempre detto, che restiamo agganciati solo ai deficit e non alle politiche di sviluppo. Dopodiché, se è stata o meno condotta in maniera corretta, ma più che corretta, scusatemi, producente o controproducente per l'Italia, è il primo tema di questa puntata. Allora, conoscete il tema, le perplessità di Bruxelles riguardano in particolare il deficit strutturale italiano, e su questo devo dire che Bruxelles ha più di una ragione. Cioè, noi abbiamo detto che c'era il terremoto, e c'è stato il terremoto, i flussi migratori, però i conti non tornano del tutto, nel senso che se vai a levare la parte terremoto e flussi migratori, l'obiezione di Bruxelles che il nostro deficit strutturale, quindi al netto del ciclo economico, non cali ma anzi cresca, è un'obiezione corretta. La risposta di Renzi invece è del Presidente del Consiglio: non mi interessa, le spese su terremoto e flussi migratori sono fuori dal calcolo del deficit. È anche una risposta più di approccio, e cioè basta legarsi allo 0,1, 0,3, 0,4 di deficit promesso. Secondo gli accordi di 6 mesi fa, l'Italia avrebbe dovuto ridurre il deficit strutturale di almeno lo 0,1% del PIL, 1,6 miliardi. Tra l'altro, Bruxelles ha anche dei dubbi su quanto stiamo calcolando come costi per terremoto e migranti, in tutto circa 6-7 miliardi. Devo dire, visto che ho dato ragione a Bruxelles, che d'altra parte ieri Juncker non è che abbia fatto una gran figura, perché poi è intervenuto il portavoce a dire i numeri erano dati a livello indicativo, cioè anche i numeri erano un pochino sballati, quelli che lui ha citato. Però vorrei sentire cosa ne pensa la mitica, e quindi ringrazio per essere in collegamento con noi Adriana Ceretelli, editorialista sulle 24 ore da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. E grazie anche a un ritorno, ci abbiamo messo più a beccare Piga che a fare altro nella vita, non voglio far battute, professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Roma Tor Vergata. Buonasera, bentornato. Buonasera, è sempre un piacere. Sì, sempre un piacere quando la becchiamo, Piga, è un mese che la stiamo cercando. Va bene, allora Adriana, poi adesso ascoltiamo Renzi oggi sull'Europa, e poi il primo commento di Adriana Ceretelli, non voglio sapere a chi dai ragione, poi magari me lo dici. Ma dove porterà questo scambio dialettico, diciamo così, per essere eufemistici? Renzi, che ha ribadito tutto quello che serve per l'edilizia scolastica viene prima della stabilità dei burocrati di Bruxelles. A me non interessa quello che dice il portavoce della Commissione o il portavoce del Consiglio, a me interessa quello che dice il portavoce del Comitato dei rappresentanti dei genitori delle scuole. Perché dopo il terremoto noi abbiamo un problema, Fabrizio, che è il terremoto e la ricostruzione. e vuol dire Amatrice, vuol dire Prece, vuol dire Norce, vuol dire quella chiesa che, prima le case naturalmente, ma quella chiesa che è un simbolo dell'Europa e, del, e dell'Italia, tutte le cose giustissime. Però poi c'è il punto che quel terremoto non deve essere l'occasione per ricostruire soltanto lì. L'hanno sentito, qui meno ovviamente, ma 20 milioni di italiani. E quei 20 milioni di italiani sono preoccupati per i loro figli. E allora tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica, piaccia o non piaccia, i signori di Bruxelles, sta fuori dal patto di stabilità. Allora, è chiaro che c'è anche, Adriana, un elemento, diciamo, politico, elettorale. Sarebbe strano che non lo facesse un Presidente del Consiglio in questo attacco a Bruxelles. Però dove ci porterà è intanto un tuo giudizio sulla frase, sulla dichiarazione ieri di Juncker. È sbottato perché, diciamo, è stato provocato per un'intera settimana e forse anche più, oppure ha fatto male a sbottare in quel modo, un po' abborracciato? Allora, se si guarda... Non ho detto imborrassato, ho detto abborracciato. Della dichiarazione. Prego, prego. Se si guarda il testo della dichiarazione, lo sbotto di Juncker non ha riguardato tanto l'Italia quanto l'accusa alla sua commissione di applicare solo una politica di austerità. Quindi già questo è stato, secondo me, fuorviante all'inizio. Ma in questa campagna piuttosto, come dire, rissosa ed emotiva, è chiaro che spesso si cambiano, diciamo, le cose, o si usano, o si strumentalizzano. Allora, come finirà? Finirà con un accordo, perché nessuno si può permettere il disaccordo. Quindi ci sarà un accordo, il 16 novembre probabilmente cominceremo a capire questi famosi zero virgola come si muoveranno, e poi dovremo aspettare il 5 di dicembre per sapere quale sarà l'accordo dell'Eurogruppo. Ma quello che io vorrei dire è che sinceramente, come italiana, a me non piace molto questo attacco populista all'Europa, non ci siamo, le scuole, eccetera, le chiese, perché è ovvio che le spese eccezionali sono previste dal patto di stabilità. Quindi non è questo il punto è un altro. Il punto è che se noi non rispettiamo gli impegni, già non è una buona cosa in sé. Ma soprattutto il fatto che non rispettiamo certi numeri non è un problema, diciamo, di pura contabilità ottusa, burocratica, eccetera. È un problema di convergenza dentro l'Eurozona. Ora, noi, grazie a Draghi, possiamo continuare a contare su diciamo, tassi di interesse molto bassi per un debito che sappiamo tutti è mostruoso. Ma nel momento in cui si sancisse che l'Italia si ribella al patto di stabilità, i mercati ci attaccherebbero 5 minuti dopo, gli spread salirebbero, e questo trionfalismo, questa sorta di gollismo, no, sul terremoto, sui migranti, eccetera, diventerebbe un flop clamoroso che si ritorcerebbe sul paese, sulla sua crescita, sulle sue prospettive. Quindi per questo io non sono d'accordo, cioè c'è del vero in quello, nella polemica, e fa parte del tira e molla negoziale, ma non bisogna eccedere. Ho capito, non bisogna dimenticare che Juncker è in mezzo all'Italia e alla Germania. Allora, uno tira la corda da una parte, dall'altra parte c'è la Germania che vuole privare la Commissione europea dei poteri di sorveglianza sui bilanci pubblici per confidarli all'ESM, che è il fondo salva stati, guarda caso, gestito da un tedesco. La scusa è sarebbe più neutrale, indipendente e non politico, ma la vera verità è che la Germania ritiene che la Commissione Juncker sia troppo politica nell'interpretazione del patto di stabilità. È troppo morbida. Quindi questo che voglio dire è che non ci facciamo del bene con un eccesso di polemica e di populismo. Oh, la mitica non ci facciamo del bene. La mitica ha colpito ancora. Ho capito benissimo cosa dici, Adriana, e cioè va bene la dialettica, quello che abbiamo chiamato in queste settimane tatticismo, per cui tu alzi un po' la voce, l'Europa risponde, tutto serve per arrivare poi a un punto di caduta e un accordo. Altra cosa, se ho ben capito quello che dici tu, è, passami in termine, esagerare, andare oltre e avere un effetto boomerang, perché portando avanti il tuo ragionamento uno potrebbe dire, se continuiamo così rischiamo, tra virgolette, di spingere Juncker verso le posizioni tedesche. Lui sta cercando, se ho ben capito il tuo ragionamento, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte tra una Germania che vorrebbe addirittura che la Commissione non si occupasse più dei conti pubblici, di mettere ISM, così i ragionieri tedeschi ce li abbiamo direttamente in casa, e un'Italia che invece dice basta, perché politicamente vede anche il guadagno su questo. Se uno vuole fare uno scontro tattico, deve essere bravo a farlo tattico e non farlo diventare strategico, cioè che poi rompiamo i rapporti e otteniamo un effetto contrario. Se posso aggiungere, non è tanto uno scontro, non è tanto il problema di uno scontro con Juncker, perché Juncker oramai nell'Europa che è sempre più intergovernativa conta sempre di meno. Cioè Juncker è un nostro alleato, non è un nostro nemico. Il confronto vero sui conti di zero virgola ci saranno il 5 dicembre all'Eurogruppo, tra i vari ministri, tra i vari presidenti del Consiglio, si vedrà come andranno le cose. Per questo non ci conviene attaccare Juncker, perché al di là di tutto Juncker è un mediatore, non è, diciamo, l'arcigno guardiano del patto di stabilità. Per questo secondo me si esagera con rischi di farci del male. Allora, perfetto il tuo ragionamento, vedo anche altri messaggi. Allora, alcuni ti danno ragione da vendere, altri dicono ma basta con questa Europa, e ho capito, altri ancora dicono sì, però tutto, vabbè, aspetta un attimo, non è che io ho un pubblico abbastanza eterogeneo, e altri dicono però con la Francia nessuno si permette di alzare i toni. Allora la Francia che cosa ha fatto? La Francia è stabilmente sopra il 3%, ma manco ci pensa a rispettare il tetto di Maastricht del deficit al 3% massimo. Aggiungo io, non voglio difendere la Francia ha un debito più basso del nostro, è ancora sotto il 100% del loro PIL, però è vero che insomma il trattamento sulla Francia è sempre stato più morbido. Vorrei sentire proprio sull'analisi di Adriana Ceretelli il professor Piga, dopo il meteo e la pubblicità, ancora 4 minuti Piga, l'abbiamo attesa per anni interi, lei ci attende per 4 minuti. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. I wanna be free. ...17.41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adriana, hai spaccato, come dicono i ragazzi di oggi, nel senso che ho metà ascoltatori che ti insultano, metà che sono d'accordo con te insultano me. Io comunque vengo sempre insultato, sia da quelli che insultano te o che ti danno ragione. Allora, addirittura uno ti ha chiamato, lo dico perché mi fa sorridere, Adriana Merchetelli, Merkel, hanno usato io non penso che tu, vabbè, stiamo un attimo seri. Professor Piga, un commento anche a quanto ha appena detto Adriana Ceretelli, lo ricordo, cioè diceva bene lo scambio dialettico, la tattica per arrivare a un punto d'accordo, attenzione, traduco male, non esagerare, perché il rischio boomerang c'è, il nostro avversario non è Juncker avversario, insomma, ma sarà il vertice Eurogruppo del 5 di dicembre, quando i vari primi ministri si andranno a confrontare. Ricordiamoci che la Germania fa pressione su Juncker perché vorrebbe addirittura levare alla Commissione Europea il controllo e la valutazione dei conti pubblici dei vari paesi. Professore. Il nostro avversario, riprendo le parole della collega, è il populismo. Allora, da dove viene il populismo che c'è adesso sempre di più? Da una parte, vabbè, c'è il clima elettorale, nessuna sorpresa su questo, però bisogna anche considerare che questo populismo è figlio della situazione economica che ci troviamo a fronteggiare. E quindi la domanda chiave è: come mai ci troviamo in questa situazione economica così difficile? Qui devo dire che gli errori sono da ambedue le parti, c'è una visione pessima di un diverso tipo. Direi che l'Unione Europea, Juncker, sono dei miopi. Io ho letto una frase sconvolgente di Juncker l'altro giorno: ogni volta che il continente è stato in pericolo gli europei hanno trovato un rimedio. Non è vero, veramente gli americani. Appena, Abbiamo appena perso il Regno Unito. L'Europa come l'abbiamo conosciuta prima di questa crisi non esiste più, quindi già questa è una frase folle. Però le voglio far vedere dov'è la vera miopia, perché sullo 0-1 è ovvio che i nostri compagni italiani e europei chiuderanno tranquillamente senza nessun problema, ma sa su cosa chiudono? Chiudono su una manovra di bilancio che dice chiaramente che l'anno prossimo l'Italia nel 2018 aumenterà l'IVA tramite l'aumento delle aliquote di 19 miliardi di euro e nel 2019 di 23 miliardi di euro. In anni, questi sono due anni comunque sia anni elettorali. Allora lei di nuovo si mette nei panni, sapendo bene che c'è grande probabilità che continueranno a posporre, si metta nei panni di un'impresa in Italia che deve investire di fronte a questa manovra, perché poi alla fine chiuderanno su questo con l'accordo, perché è questo che chiede il fiscal compact da cui non riusciamo ad uscire, e quindi il momento chiave quello sarà, vediamo se Renzi, ed è su quello che Renzi si giocherà tutto, se a fine 2017 effettivamente, come lui ha detto pochi giorni fa, avrà il coraggio di dire no, io la firma sul fiscal compact dentro il trattato non la metto, perché il 1 gennaio 2018 devono decidere se mettere il fiscal compact dentro il trattato o no. D'altro canto Renzi, se non è miope, ha la visione annebbiata totalmente, è astigmatico, perché continua a non capire perché l'Italia rappresenta un problema malgrado abbia dei numeri molto migliori di Francia o Spagna. E qui non è tanto il problema del debito, il problema non è che l'Italia ha il debito alto, il problema è che in Europa lei va dovunque va, qualsiasi persona viaggia fuori dal confine e chiede e dice che è italiano, immediatamente lo guardano in faccia e gli dicono ah, quello che non sa spendere. Ah, qui Renzi non ha capito e non l'ha capito dall'inizio e continua a non capirlo, perché se lei si guarda di nuovo il rapporto è uscito adesso dell'autorità parlamentare di bilancio, dove dice ah, questo bilancio siccome adesso è costruito con nuovi criteri di trasparenza è molto più chiaro di prima, perché l'Europa l'ha fatto costruire meglio. Certo, il peccato è che l'articolo 61, che è quello dove ci sono i risparmi di spesa previsti, famosi, quanto è scritto non consente l'immediata valutazione se questi risparmi di spesa sono credibili o no. Allora continua a dire come fa Renzi andare a un tavolo sbattendo i pugni chiedendo più soldi per spendere quando non ha e continua a non convincere nessuno in Europa che sa spendere meglio. Quando Renzi si metterà in testa di diventare il vero leader che cambia veramente sull'unica riforma che conta per il paese, quale? Allora vede come gli faranno fare, come i francesi, come gli quale, spagnoli. Quale riforma, Piga? È la riforma della spending review, l'unica che conta. Okay. Ne fate 5, adesso c'è anche un referendum su un'altra che non servirà, a mio avviso, non cambierà nulla all'interno del paese nelle condizioni economiche. Vogliamo farla la spending review? Vogliamo provarci a farla? Sì, anche, aggiungiamoci anche la riforma della pubblica amministrazione, che mi sembra che sia tra coloro sì, che sono sospesi. Parte, sì, certo. Largamente intesa fa parte della spending review. Quindi certo. Abbiamo un astigmatico, un miope, lei si immagini se non possiamo avere veramente paura che tra un po' altro che il Regno Unito. E questo è veramente sconsiderato. Quindi, sì, io immagino una cosa però, Piga, se non vorrei andare nella parte tecnica, immagino che l'Italia cerchi di portarsi a casa questa manovra di stabilità e poi nel 2017 cercheremo di disinnescare di nuovo l'aumento dell'IVA che altrimenti scatterebbe in automatico per le clausole di salvaguardia. Questo... Non c'è dubbio, ma intanto quest'anno lei si scordi per l'ennesima volta che le imprese investiranno in Italia malgrado i piccoli regali che ci sono dentro la finanziaria. Se io sono un imprenditore e nessuno mi ha chiarito se questi 19-20 miliardi di più nel 2018 e nel 2019 arriveranno sull'economia italiana, io non investo, gli investimenti privati non li faccio qua. Questo ancora non l'abbiamo capito, che il fiscal compact è molto più tragico del 3%, perché blocca le aspettative per 3-4 anni degli operatori. Non è che me lo deve dire Keynes, di dire quanto sono importanti le aspettative. Nessuno vuol fare investimenti se non ha certezza. E l'unica certezza che dà il fiscal compact è che non avremo dentro l'economia, nei momenti di difficoltà, l'aiuto degli investimenti pubblici. Questa è l'unica cosa che io capisco dal fiscal compact. Tutto il resto è confusione, ma anche la confusione non fa fare investimenti ai privati. Allora, restate con noi, ho ancora una domanda per voi dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. A Allora, no, sorrido perché anche lei, professor Piga, ha messaggi che arrivano diametralmente opposti. L'unica costante anche per lei è che io lo becco l'insulto comunque, sia che uno sia d'accordo con lei o contro di lei. Finalmente ha inviato due persone intelligenti, Barisoni, va bene. Però nessuno sta scrivendo che programma tira la volata a Renzi oggi, visto che mi sembra che né Adriana Ceretelli né il professor Gustavo Piga abbiano fatto questo. Però, vorrei chiudere su questo. Allora, addirittura uno riesce a dire: questa sera, per farsi perdonare il suo renzismo abituale, ha invitato apposta due fogli di fico. Adesso dai. Mi è una battuta, sto zitto. Allora, Adriana, però oggettivamente, da un punto di vista politico, è anche molto difficile in questo momento dire vabbè, l'Europa ha ragione, no? Cioè, ormai siamo in una posizione in cui anche in Germania, su un fronte completamente opposto, si fa la campagna politica criticando l'Europa. Cioè, diventa ormai il totem, l'elemento totemico, che se tu critichi i tedeschi perché c'è troppo poca austerità, gli italiani perché c'è troppo poco ragionierismo da austerity tedesca, comunque hai un guadagno elettorale, o no? Assolutamente sì, ed è questo un po' il grande problema dell'Europa. Però secondo me c'è sempre lì un conto, è la Germania che critica l'Europa, che è un fatto pericoloso, mm-hmm. ma insomma, finché la SD rimane in quelle percentuali di voto, insomma, si può governare. Più problematico è la Francia, dove appunto la critica all'Europa vede Le Pen, che può essere, che è il primo partito in Francia, certo, che potrebbe passare il primo turno alle presidenziali, eccetera, e spero che non diventi presidente, ma francese. Diverso ancora il caso dell'Italia, perché l'Italia è l'anello debole tra i grandi paesi dell'Unione, perché la Francia, è vero, c'è il solito doppiopesismo, lo scudo tedesco diciamo garantito al buio, perché c'è una tradizione storica, perché la Germania senza la Francia non potrebbe governare l'Europa, insomma 3.000 cose. Fatto sta che non siamo l'anello debole, siamo l'anello debole, sì, per il debito, per l'assenza di competitività, per l'assenza di investimenti, tutte le cose che diceva anche il professore, e per questo secondo me è ovvio che, diciamo, approfittiamo dell'anti-europeismo come arma elettoralistica, però lo dobbiamo fare con estrema cautela. E anche con furbizia, se posso siamo aggiungere. Siamo più vulnerabili. Come? E anche con un po' di furbizia, se posso usare il termine. Cioè, pro domo nostra, esatto, ma non in maniera grossiera, non in maniera grezza. Certo, allora, certo, perché appunto siamo i più vulnerabili. Quindi insomma ci dobbiamo preoccupare di noi stessi. Professor Piga, i mercati sono lì. Sì? No, dimmi. Dico, i mercati purtroppo sono lì ad aspettare di dove poter dirigere i loro attacchi speculativi. Ora, se l'Italia in qualche modo prestasse il fianco a un deragliamento della sua posizione nel patto di stabilità, sì, parlo di deragliamento ufficiale, perché la differenza è sempre questa: anche gli altri violano il patto. Non dimentichiamoci che la Spagna e il Portogallo l'hanno violata a go-go e non sono in corso di sanzioni. Ma perché? Perché hanno negoziato dietro le quinte, perché non hanno strillato sulla pubblica piazza. E questa è un po' sì, la questa, allora, questa è una cosa che già ci avevi raccontato. Cioè, in Europa, e devo dire che anche la Merkel, se non ricordo male, un anno e mezzo fa lo disse proprio a Renzi. Dice: ma guarda, queste cose, invece che strillarle prima di entrare in un consesso o a vantaggio delle telecamere e delle conferenze stampa, diciamocele tra di noi e troviamo un punto di accordo, perché se tu le dici pubblicamente poi obblighi me a prendere, traduco, una posizione ancora più rigida. Professor Piga, visto che mi stanno insultando perché la invito poco e lei riconosca pubblicamente che lei che non si fa trovare, perché sempre, adesso sempre mi invita, tutti gli insulti posso tenere ma non questo. Resti con noi mentre saluto e ringrazio Adriana Ceretelli in collegamento da Bruxelles, perché ho il GR24, vorrei il suo ultimo commento anche su questo, perché mi sembra che bisogna anche ricordarsi cosa fa un leader politico: cerca consenso politico, e qui c'è da guadagnare in questa posizione. Poi passiamo alle borse, non vi preoccupate, e a una prima anticipazione del mitico Mario Platero sui temi delle elezioni statunitensi. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Beh, su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. I wanna be free, set free. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Piga, concludiamo questa pagina lunga ma dovuta, ci mancherebbe, ai rapporti tra Roma e Bruxelles. Adriana Ceretelli ha ricordato, attenzione, facciamo questa, alziamo la voce ma con intelligenza e in maniera tattica, senza esasperare e avere effetti controproducenti. Io ricordavo che però con il tasso di consenso che ha l'Europa in questo momento, tutti i leader politici anche in Germania, con motivazioni diverse, hanno un, diciamo, un guadagno elettorale nell'attaccare l'Europa, o no? Sì, sì, sì, qui c'è però un paradosso, perché questi governi che cercano consenso politico andando contro l'Europa hanno perso, va ricordato, consenso politico creando questa Europa e tra l'altro cedendo a altri il monopolio di criticarla, cioè ai populisti. Quindi il loro vero problema non è tanto di criticarla, ma è cercare di ritrovare consenso politico, e per farlo l'unico modo, perché tanto il monopolio del populismo non ce l'hanno e non sono nemmeno capaci di averlo, devono dimostrare che esiste effettivamente un'Europa che per ora non abbiamo visto, dello sviluppo, dell'occupazione, delle opportunità, dell'innovazione, della crescita, della solidarietà, il che significa, tornando a quello che dicevo prima, mettersi gli occhiali. L'Unione Europea si deve mettere gli occhiali e guardare lontano e quindi far fuori definitivamente il fiscal compact, tornando a essere come gli Stati Uniti e il Giappone, che crescono benissimo senza. E al signor Renzi io consiglierei un bel occhiale per vederci da vicino senza la vista annebbiata e fare finalmente la benedetta spending review, così certo che poi nel 2017, quando dice niente più fiscal compact, qualcuno gli dà retta, riusciamo a vivere in un mondo dove l'Italia spende bene, non preoccupa più nessuno e l'Europa cresce perché ha smesso di fare politiche di austerità, e a quel punto quei partiti saranno pure riusciti a sopravvivere, cosa che mi interessa poco, perché effettivamente quello a cui tengo per mio figlio è che sopravviva un'Europa diversa da questa. Allora staremo a vedere come andrà. A questo punto bisognerà attendere per la parte, diciamo, più cruciale, ripeto, il 5 dicembre, quando si riunisce l'Eurogruppo a Bruxelles, e quindi i leader politici, non tanto, come ricordava Adriana Ceretelli, la Commissione in sé, ma i leader politici dei vari paesi dell'area euro. Grazie anche a Gustavo Piga, nella speranza di averlo con tempi più, diciamo, non da fiscal compact. Ecco Piga, dai, risentiamoci. Prometto. Più a breve, andiamo subito sulla borsa e poi iniziamo qualche anticipazione, non tanto sull'esito elettorale americano, saremo il mago Telma, ma sulle diverse, sebbene poco sottolineate, poco incisive nella campagna elettorale, prospettive economiche tra Donald Trump e Hillary Clinton. borsa. La borsa oggi, tutte le borse sono abbastanza attendiste, più 0,48 Milano, più 0,24 Francoforte, più 0,35 Parigi, più 0,50 Londra, il Dow Jones più 0,60% in questo momento, Italgas meno 3,40, Pop Milano meno 2,80, Banco Popolare meno 2,70 e Saipem meno 1,5, i titoli peggiori tra quelli a maggiore capitalizzazione, Azimut più 7,30 e poi Monte dei Paschi più 3,90, Brembo più 2,80, Mediolanum più 2,40 più 2%. Invece i titoli che meglio sono andati, vorrei commentare come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Prima di tutto però, e nella persona di Ciao Condina, buonasera Ciao. Oh, buonasera a tutti. Il ministro Padoan, questa battuta voglio farla ascoltare, sul Monte dei Paschi, tutti continuano a parlare del Monte dei Paschi, anche Renzi l'ha fatto, vabbè, Padoan sul Monte dei Paschi. Rimango assolutamente fiducioso nel piano perché non è successo niente che faccia pensare che il piano non possa funzionare, sta andando avanti e quindi è il piano che verrà presentato poi all'Assemblea e che il Consiglio di Amministrazione ha già approvato. Vabbè, al di là di Padoan sul Monte dei Paschi, Azimut più 7%. Azimut festeggia la trasformazione in SGR, è arrivato ieri l'ok della Banca d'Italia, ma soprattutto lo stacco di una super cedola che è legata appunto alla trasformazione in SGR, una cedola, ricordiamo, da 1 euro, il titolo vale oggi 15 euro, quindi non è niente male, cedola che verrà staccata il prossimo 21 novembre, quindi chiaramente oggi chi voleva aggiudicarsi questa cedola si è precipitato ad acquistare il titolo sul mercato. Saipem e Tenaris invece abbiamo visto oggi un po' di debolezza sul settore legato al petrolio. Il petrolio ha perso un altro punto percentuale, sempre a $44 al barile. Sì, assolutamente, sono due aziende che ovviamente hanno business strettamente legati al greggio e quindi hanno immediatamente pagato i nuovi ribassi del corso del petrolio, in particolare Saipem, che è sempre attorno a 0,37-0,38 euro, non si schioda da quei livelli che erano poi i livelli dell'ultimo aumento di capitale. Ancora Banca Mediolanum, oggi la trimestrale, il mercato apprezza. Sì, è andata bene, un utile che sui 9 mesi è pari a 305 milioni, scende sostanzialmente del 2%, quindi comunque stabile, un dato che è stato particolarmente apprezzato dal mercato è che nel terzo trimestre c'è stato il record assoluto delle commissioni di gestione. Ancora sui titoli, devo dire oggi Brembo ancora risente in maniera più che positiva della trimestrale, più 2,80%. I bancari li abbiamo visti, non tutti, adesso siamo precisi, Pop Milano e Banco Popolare soprattutto in calo, gli altri Unicredit meno 0,60 più tranquilli. Sì, i bancari, diciamo diverse vendite sui bancari particolarmente attesi erano le trimestrali poi di BPM del Banco Popolare che sono state diffuse a mercati chiusi, in particolare la Banca Popolare di Milano ha avuto un utile dei 9 mesi in calo del 56% a 88 milioni, quindi forse è spiegato perché il titolo ha chiuso in ribasso del 2,8%. Italgas meno 3,40? Diciamo siamo al secondo giorno di quotazione, ieri c'è stata la scissione proporzionale, così la chiamano dalla ex controllante Snam, diciamo che non è andata bene perché ha perso il 3-4%, già ieri aveva ceduto lo 0,7%, chiaramente parliamo di un titolo da cassettisti, quindi guardare le performance di 2 giorni ha senso limitato, però c'è da dire che insomma in 2 giorni ha perso il 4%. Allora, sui migliori e peggiori, Azimut in assoluto è il miglior titolo oggi, più 7%, poi Heidelberg Cement più 6,70, Mondadori Editore più 5,90, Crédit Agricole più 5,80, Gambero Rosso più 4,40, fronte opposto Landi Renzo meno 8,30, TAS meno 5,90, Stefanel meno 5,60, Notorious Picture meno 4,90, Class Editori meno 4,30%, euro su dollaro, ripeto, me lo chiedete, comunque lo do volentieri, è a 1,10. Un'ascoltatrice mi chiede di nuovo di sapere quanto versa l'Italia. L'Italia è un contribuente netto da sempre nei confronti di Bruxelles, non è l'unico, versa circa 20 miliardi e ne riceve 12. Il problema, se posso aggiungere una chiosa, è anche come li spendiamo, e pensate alla nostra classifica del venerdì, i soldi che riceviamo da Bruxelles, cioè come non li spendiamo in alcune regioni, soprattutto del sud, però che siamo un contribuente netto è fuori discussione. Grazie intanto, ciao Condi, andiamo sul traffico e poi Platero, che alcuni mi scrivono, Platero è tutto schierato per la Clinton. Sì, ragazzi, può essere anche schierato, non lo so, adesso glielo chiediamo, ma non è che questo possa determinare lo spostamento del voto nell'Ohio, almeno non penso. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, Jimi Hendrix, per chi non l'avesse riconosciuto, che suona, non certo canta, l'inno americano, è l'introduzione migliore per Mario Platero in collegamento da New York. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora, ti dico subito che ti stanno dando tutti, non molti ascoltatori, assolutamente schierato con la Clinton. Tu non voti negli Stati Uniti però, no? Allora, due cose. No, dimmi primo se voti. Voto. Voti. Primo voto. Ah, questo è grave. Ho votato... però. Ho votato oggi per la prima volta, ah. E naturalmente il voto è segreto e dunque non si può, soprattutto dal punto di vista giornalistico, non perché è hai preso la cittadinanza però, americana? Però, sai che puoi avere la doppia cittadinanza, sì, certo. Quella italiana e quella americana, quindi io amo l'idea che si possa, come dire, operare in uno spirito di apertura, in uno spirito transatlantico, quindi avendo avuto questa possibilità, a un certo punto... l'ho presa e devo dirti che essere alle urne americane, beh, è stata una certa emozione, soprattutto perché era la prima volta. E c'era molto ordine, non c'era confusione, non c'era il rischio di persone che potessero intimidire come magari qualcuno dei candidati lasciava intendere. Però questo è il primo punto, ma il secondo punto è cioè quello che tu dici, che molti ti hanno scritto, no, dicendo tutti, che io quelli sono che... schierato. Sì, dicono che tutti, l'hai anche perfetto, detto in diretta. Insomma. Perfetto, perfetto. Allora, io sono schierato. Allora, ricevo anche molti Twitter. Qual è il punto, caro Sebastiano? È che nel nostro mestiere, tu lo sai, dobbiamo fare due cose. Uno, dare una fotografia di quello che succede, e due, cercare di anticipare, soprattutto per quello che facciamo noi col gruppo Sole 24 Ore, che ha un pubblico di persone che si occupano di economia, di mercati, di anticipare quello che più possibile su quel che può succedere. E dunque, nel momento in cui tu hai una fotografia, ad alcuni questa fotografia non piace. A me spiace questa cosa, ma se io dico che il mercato preferisce Hillary Clinton, direi, l'abbiamo visto l'altro giorno, quando c'è stato un cambiamento di posizione da parte dell'FBI che avvantaggiava Hillary Clinton, ecco che il mercato è aumentato del 2%, oggi siamo ancora all'aumento dello 0,3%, insomma il grosso sconto è già stato l'altro giorno. Per cui io non capisco come queste persone possano dire se non gli piace la fotografia. No, è che ti sei infilato in un cul-de-sac, perché adesso mi stanno chiedendo se le tasse le paghi negli Stati Uniti certo o in Italia. Che le pago. No, se le paghi. Purtroppo. No, ma se le paghi le qua. Pago dappertutto. Va bene, quindi Mario Platero in versione TTIP. Allora, andiamo ai programmi. Io dicevo all'inizio che questa campagna elettorale si è contraddistinta per molte cose, ma anche e soprattutto per una pochezza quanto al dibattito dei programmi elettorali, dei programmi veri e propri, perché si è tutta giocata sulla figura di Trump, su Hillary come l'anti-Trump, le magagne delle mail di Hillary e quant'altro. Di programmi abbiamo letto pochino, o perlomeno forse ci siamo distratti. Io ho segnato alcuni punti: se vince la Clinton, aumentare le tasse per le grandi imprese per finanziare gli investimenti pubblici in infrastrutture, e semplificare il fisco per le piccole e medie imprese, alzare il salario minimo ai $15 l'ora, cambiare, modificare un po' e rafforzando l'Obamacare, rigettare il trattato con i paesi del Pacifico e poi introdurre una tassa sulle società di Wall Street che fanno operazioni rischiose e transazioni ad alta frequenza. Se vince Trump, taglio delle tasse federali per rilanciare i consumi, abolizione tout court dell'Obamacare, la riforma sanitaria di Obama, abolizione della tassa di successione, ridurre le aliquote da 7 a 3, abbassare le tasse federali sulle imprese dal 35 al 15 5,5%, abolire le leggi che impongono gli standard ambientali, rigettare il trattato con i paesi del Pacifico. Lui ha promesso in campagna elettorale 25 milioni di posti di lavoro. Mi sembra che l'unico punto simile di caduta sia abolire il trattato con i paesi del Pacifico. In realtà, perché Wall Street, visto che letti così i programmi, sembrerebbe più aggressiva la Clinton nei confronti della finanza rispetto a Trump, che ci ha sempre campato con la finanza, perché Wall Street, come abbiamo visto in effetti tre giorni fa, vede con maggior timore un'eventuale vittoria di Trump? Allora, aggiungo a quei programmi una promessa non secondaria per i mercati e per le aziende da parte di Trump, che è di eliminare quanto più possibile tutta una serie di regole che limitano e frenano l'azione delle aziende. E dunque la combinazione, devo dire, di meno tasse e meno regole con un candidato repubblicano in genere è una carta vincente per Wall Street. In genere non ci sono dubbi, Wall Street adora chi fa questo tipo di promesse. Eppure in questo caso non funziona, per Trump non funziona. Perché? Beh, perché Trump anche promette la chiusura commerciale e questo è un problema piuttosto serio per Wall Street, perché prima delle tasse e prima delle regole tu devi sapere di poter contare su un'apertura dei commerci, sulle transazioni mondiali sotto ogni punto di vista, sia finanziario che commerciale, e possano continuare e andare avanti, diciamo, tranquillamente. E dunque per Wall Street l'idea che questo possa chiudersi, che addirittura come dire il multilateralismo possa chiudersi, beh, diventa un elemento di grandissima preoccupazione. Per questo Wall Street preferisce Hillary Clinton. Hillary Clinton rappresenta la continuità, se vuoi, rappresenta un politico che ha lavorato al Senato, che è in grado di gestire la macchina dello Stato. Si rende conto Wall Street che con Trump, che è riuscito a coagulare e a dar voce a quella protesta, devo dire, molto forte che abbiamo registrato in America e che registriamo in Europa, che non è contenta dello status quo, ecco, Trump questa garanzia non la dà. Con Trump c'è l'idea che possa esserci un salto nel buio, perché è un candidato anomalo. Gli stessi leader del Partito Repubblicano, come dire, lo guardano con un certo sospetto. E dunque Wall Street preferisce la certezza, la stabilità all'incertezza e al salto nel buio. Questo è il presupposto che, diciamo, spinge gli operatori di Wall Street a muoversi verso Hillary Clinton piuttosto che Donald Trump. Allora, ma siamo così convinti che al di là della campagna elettorale poi dovesse vincere Trump potrebbe mettere in atto tutto quello che ha promesso? Voglio dire, gli Stati Uniti non sono guidati solo dal presidente, c'è una comunità economico-finanziaria, ci sono soggetti, stakeholders, cioè, siamo così convinti che Trump possa far piombare, diciamo, gli Stati Uniti in un isolazionismo che obiettivamente avrebbe più di una ripercussione di un problema, o no? Allora, sicuramente c'è negli Stati Uniti la tradizionale separazione dei poteri, cosiddetti check and balances, e dunque Trump non sarebbe un presidente isolato che decide tutto quello che vuole alla Casa Bianca. Tra l'altro è possibile che il Senato finisca in mano democratica e dunque ci sarebbe ancora più un controllo nei suoi confronti. La dicotomia del potere fra potere legislativo e quello esecutivo esiste da sempre, è il perno su cui la democrazia americana ha sempre costruito la sua storia. Dunque sì, ci sarebbero dei controlli su Donald Trump. Il problema, caro Sebastiano, è che se Donald Trump improvvisamente dice ma io potrei rinegoziare il debito americano, perché questo lo ha detto e lo dice casualmente senza sapere esattamente né quello che dice né la portata di quello che dice, beh, i mercati crollerebbero, perché tu capisci che i titoli del tesoro americano sono un benchmark attorno al quale c'è l'architettura finanziaria mondiale. Allora, una prima notizia abbiamo avuta, cioè, ossia che un voto la Clinton l'ha preso da te. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Adesso, la domanda finale, visto che poi stanotte iniziamo una lunga diretta elettorale, dalle 21 in realtà fino alle 6 di mattina, e poi la programmazione continua con chiaramente tutti gli aggiornamenti. La vera domanda è: ma se vince Trump, te la mantiene la cittadinanza, Platero? Allora, no, la vera domanda, Sebastiano, è: ma tu per chi voti? No, io non voti, io non voto negli Stati Uniti. No, no, no, non mi gira la domanda. Per chi voteresti? No, diciamolo ai nostri ascoltatori. Non ci penso, non ci penso minimamente. Tu non hai il vincolo del voto, non ci penso minimamente. Non ci sarebbe un problema. Non ci penso minimamente. Allora, no, si resta in America. Qualcuno, come dire, dice, così fa illazioni di dire bisogna andarsene, la situazione è difficilissima. Non è vero, l'America resta un paese con le spalle larghe. Allora fa la previsione più difficile, chi vince? Ma dunque, secondo me, oggi, come stanno le cose in questo momento, vince Hillary Clinton. Ha più probabilità di vincere, ce l'ha detto il mercato, ce lo dicono i sondaggi. Detto questo, siamo in uno stato di incertezza. Donald Trump ha fatto molto bene, soprattutto negli ultimi giorni ha condotto una campagna aggressiva da tappeto, ha dimostrato molta più disciplina di quanto ne avesse dimostrata nelle settimane precedenti ed ha recuperato molto nei sondaggi. Dunque, l'incertezza c'è, Hillary Clinton in vantaggio, il mio pronostico adesso, for the record, poi tutti chiaramente mi tireranno i sassi perché avrò sbagliato, ma il mio pronostico è che vincerà Hillary Clinton. Allora, staremo a vedere, si dovrebbe avere la conferma tra le 5 e le 6 di mattina, poi le elezioni americane ci sono abituato anche delle volte a anticipazioni più forti. Risentiremo Mario Platero tutta la notte, chi sarà e seguirà Radio 24. Agli altri comunque l'auguro di una buona serata. Focus su una mia tonna in diretta domani dalle 17. Intanto è tutto da Sebastiano Barisoni. Radio 24, libera la voglia di fare.